Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Prosegue la ripresa iniziata lo scorso maggio del cosiddetto sentimento economico nella zona euro in Unione Europea. A gennaio 2014 gli indici guadagnano rispettivamente 0,5 e 0,9 punti, portandosi a 100,9 e 104,7, livelli che non si vedevano dall'estate 2011. Il sentimento economico è migliorato però solo in due dei cinque paesi più grandi della zona euro, cioè in Germania e Francia. In Italia invece perde 2 punti. Tra i paesi non euro il sentimento economico è aumentato maggiormente, anche qui nei due paesi più grandi, Polonia e Gran Bretagna. Intanto, secondo la BCE, si è quasi arrestato l'inasprimento del credito nell'area euro, o almeno secondo l'indagine periodica della Banca Centrale Europea, che sull'ultimo trimestre del 2013 segnala una quota netta di banche che ha riferito criteri più stringenti per la concessione di prestiti alle imprese, calata dal 2%, dal 5% dei 3 mesi precedenti. Per quanto riguarda il credito bancario alle famiglie, la tendenza, che si è pure invertita in Europa sulla componente più rilevante, vale a dire i mutui per l'acquisto di casa. E restando al fronte economico, dalla visita europea ieri dei ministri italiani e del Premier Letta emerge una novità importante che ci riguarda direttamente. È stata decisa infatti la ripartizione dei fondi europei per regione. Importante passo avanti nella definizione dell'accordo di partenariato tra l'Italia e la Commissione europea per la programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Il ministro per la coesione territoriale Trigilia, in visita ufficiale ieri a Bruxelles con il presidente del Consiglio Letta, ha annunciato l'accordo con le regioni per la ripartizione delle risorse assegnate all'Italia. Si tratta di più di 31 miliardi di euro per i prossimi 7 anni. L'intesa con le regioni è un elemento fondamentale dell'accordo di partenariato, la cui bozza era stata presentata dal governo italiano a Bruxelles a metà dicembre, sia pure incompleta. Alcune regioni più sviluppate reclamavano una distribuzione più equilibrata delle risorse, che per il centro-nord sono aumentate del 35% rispetto alla programmazione precedente. Un compromesso inoltre è a portata di mano anche sul contributo che il ministro chiedeva ad alcune regioni a vantaggio delle 5 in transizione, che rispetto ai 7 anni precedenti hanno perso risorse. Prima del via libera definitivo all'accordo, è necessario risolvere altre questioni, prima fra tutte la distribuzione tra programmi nazionali e programmi regionali. Trigilia vorrebbe affidare ai ministeri più risorse che in passato, ma ha incontrato l'opposizione delle regioni. Tra marzo e aprile, comunque, tutti i nodi dovrebbero essere risolti. Giuseppe Chiellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo una stima diffusa dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, nel 2013 più di 45.000 migranti hanno rischiato la vita nel Mediterraneo per raggiungere l'Italia e Malta. E molti hanno perso la vita davvero, come nel naufragio di Lampedusa, che convinse la Commissione europea a istituire una task force per il Mediterraneo. I risultati del lavoro saranno presentati oggi al Parlamento europeo. Michele Cercone, portavoce della commissaria europea agli affari interni Cecilia Malmström, al microfono di Laura Bettini. Le conclusioni della task force per dare seguito alla strategia che la Commissione ha suggerito dopo la tragedia di Lampedusa si articolano nel breve, medio e lungo periodo. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di essere in grado di identificare e intervenire per salvare vite umane nel Mediterraneo. Ci sono 2 strutture operative, una è Eurosur, un sistema tecnologico che permette di identificare meglio, con più precisione e di intervenire più rapidamente, e poi un aumento della presenza di Frontex, l'agenzia per il sostegno al controllo delle frontiere, nel Mediterraneo. Per il medio e lungo periodo si tratta di cooperare, dialogare meglio con i paesi di origine e di transito per aprire maggiori canali per l'immigrazione regolare e allo stesso tempo lottare contro le reti di trafficanti e scafisti che sono all'origine poi di queste tragedie. Arriveremo, per così dire, pronti alla primavera e all'estate prossima? Credo che essere pronti di fronte a un fenomeno che in realtà è guidato da forze criminali è sempre molto complicato e difficile. Di sicuro arriveremo alla prossima stagione con gli strumenti e le risorse che permetteranno di avere un intervento più accurato, di monitorare in maniera più dettagliata e sicuramente di scambiare meglio le informazioni per evitare che possano succedere tragedie. E l'Europa torna come sempre questa sera ad Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.